a ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. C'è un momento in cui i clan irrompono a gamba tesa nella vita delle famiglie normali, aggettivo che si usa soprattutto al sud per indicare chi non ha legami né interessi coi boss. Anche a loro, gente normale appunto, è capitato di dover ad un certo punto avere a che fare con le mafie e con le loro richieste. Richieste soprattutto di pizzo, l'estorsione da pagare per mettersi a posto col capo della zona, ma anche richieste sempre più frequenti di interessi da usurai per dei prestiti. E se davanti agli emissari dei boss e ai loro messaggi di violenza molti imprenditori, soprattutto nel passato, hanno piegato la testa e messo mano al portafogli, ora sono sempre di più quanti hanno il coraggio invece di dire no e hanno il coraggio di cacciare fuori dal proprio negozio pure chi porta il cognome ora più temuto dentro Cosa Nostra, quello di Messin Denaro. Ci sono dei no che rafforzano e che anzi consolidano la presenza di alcuni imprenditori all'interno della società, ma ci sono però anche dei no che si pagano a caro prezzo, se non più con la vita, come successe a Libero Grassi, con quell'emarginazione sociale che costringe all'esilio. In ogni caso sono dei no coraggiosi ed è per questo che capitane coraggiose sono state chiamate le imprenditrici che abbiamo incontrato sul palco di Trame 4, il festival dei libri di mafia di Lamezia Terme. Elena Ferraro di Castelvetrano in Sicilia, Raffaella Ottaviano di Ercolano nel Napoletano e Francesca Miscimarra tornata in Calabria per la prima volta dopo un sofferto esilio. Storie diverse per latitudini e tempi, storie però sempre di donne e imprenditrici che hanno sfidato a viso aperto i boss della loro zona, come quelli che piombarono nel 2004 in una Ercolano devastata dalla faida tra i clan Birra e Ascione nel negozio di Raffaella Ottaviano e le dissero: ci manda lo zio. A che io risposi: chi è questo zio? Dice: Giannino. Chi Giannino? Ancora una volta io chiesi e lui mi disse: signora, e domande facci e non ne facci voi. A che dissi io: chi paga sono io e devo sapere a chi pago. A questo punto lui mi fa: signora, camma fa, sono tre negozi, spicciamoci, volete sapere la cifra? A che io risposi: no, non sono interessata, andate fuori, immediatamente, andate fuori. A che loro: signor, si calmi, vi raccomando, un momento, fateci parlare. No, non voglio più ascoltare. Fuori! E li presi a male modo e li cacciai fuori. Signor, noi ci offrimo, fate quello che volete, ma da me non avrete niente, uscite fuori. In quel momento capì che purtroppo non avevo, o pagavo o avrei dovuto chiudere, e pensai: voglio chiudere ma non voglio mai, intanto io adesso vado a denunciare, poi se devo chiudere chiudo anche. Perché è questo il bivio che il più delle volte si apre davanti a chi si trova, certo, davanti un estorsore che in modo così diretto appunto dice: sono io qua che comando, perché mi manda lo zio che è qui che comanda. E quindi lui pensava, però invece si è trovato di fronte una donna e un'imprenditrice forse che le ha risposto in un modo che non si aspettava. E infatti che rimasero, erano terrorizzate, anche io me ne accorgo. Io ho avuto il coraggio, sì, ma a me è stato il coraggio della paura, non crediate. Adesso uno lo racconta con, ma voi viverle è qualcosa di: signor, facciamo presto, che dobbiamo fare? Insomma, signor, ma guardi, era terrificante, credetemi. Non voglio più ricordare però quello che ho passato. Da questo momento, da quel momento, cioè dal momento in cui questo coraggio ha portato a cacciare fuori dal proprio negozio chi veniva a chiedere un pizzo e non si aspettava una risposta di questo tipo, si è innescato un cambiamento e un meccanismo all'interno di Ercolano, siamo appunto ai piedi del Vesuvio, per cui Raffaella non solo è diventata il punto di riferimento di altri imprenditori che nella stessa città hanno deciso di rispondere allo stesso modo alle stesse richieste estorsive, e sono stati ormai più di 40 le denunce che in questa città, che un tempo era dominio dei clan, ci sono state, ma allo stesso tempo lei ora, al momento della paura, è passata al momento della, diciamo, della serenità, perché sente una comunità che la difende. Certo, il mio paese, il sindaco con tutta la giunta comunale hanno fatto sì che io avessi il cavaliere al merito della Repubblica, e devo dire grazie all'associazione Antiracket, perché senza gli associati guardi, io sono rimasta in malinconia per 2 anni da sola, appena denunciai sono andata a fare un processo da sola senza avvocato. Mi sono difesa da sola. Poteva contare su una validissima arte oratoria che, come vi state rendendo conto, di sicuro, diciamo, l'ha supportata con una veemenza, diciamo, tutta partenopea, anche nel raccontare la sua storia. Però ha introdotto un elemento fondamentale, che non è soltanto quella del coraggio dei singoli, ma quello dell'importanza di avere un supporto, di una rete che, è vero, che accompagni in questo percorso complicato, faticoso, ma un percorso che poi alla fine in qualche modo, diciamo, rende più liberi di prima. Allora, dalla Campania io mi vorrei trasferire in Sicilia, perché se possiamo chiedere il microfono, perché quando un'imprenditrice, quando una donna si trova di fronte e ascolta una minaccia così forte come è stata quella di Raffaella, sa anche perfettamente quali sono le conseguenze, che cosa vuol dire una minaccia di quel tipo. Così è capitato a Elena Ferraro, siamo a Castelvetrano. Castelvetrano, come forse molti di voi sanno, siamo nella provincia di Trapani, è la patria di Matteo Messina Denaro, la primula rossa di Cosa Nostra, l'ultimo super boss tuttora latitante. Ebbene, nella attività di Elena Ferraro, che è una imprenditrice che lavora nel campo della sanità, si occupa appunto di un centro radiologico, arrivò uno che aveva il suo stesso cognome, fa cognome Messina Denaro, e quel nome lì in una terra di quel tipo non è soltanto, diciamo, la paura di avere di fronte qualcuno che ti chiede che ti chiede soldi, che chiede che tu paghi per liberarti di lui, ma vuol dire tutto il resto, vuol dire tutto quello che c'è dietro. Elena però, anche lei, davanti, nonostante il cognome pesante, ha avuto la stessa reazione di Raffaella e li ha mandati fuori dal suo negozio. Elena. Intanto buonasera a tutti, grazie per l'accoglienza davvero esemplare. Sono Elena Ferraro, un imprenditore nel settore della sanità. Io sono proprietaria e legale rappresentante di una clinica privata convenzionata col Sistema Sanitario Nazionale. Il 12 aprile del 2012, quindi è piuttosto recente rispetto ai fatti accaduti alla mia collega, adesso la chiamo così, quell'aprile del 2012 io mi trovavo nel mio ufficio a Castelvetrano con la porta aperta. A me piace molto avere il contatto con il pubblico che entra. Noi abbiamo anche, la nostra struttura non eroga soltanto prestazioni di radiologia, ma anche laboratorio analisi, è una clinica polispecialistica. A contatto col pubblico. Sì. Quel giorno, quindi dicevo, mi trovavo nel mio ufficio, entra un signore, chiude la porta alle sue spalle, si presenta con questo cognome importante dicendo buongiorno, sono Messina Denaro. Lui omise volutamente il nome, ovviamente io ho capito subito la sua intenzione e soprattutto capii subito che connotazione avrebbe avuto la conversazione che si sarebbe svolta subito dopo. Allora questo mi misi in ascolto, o chiaramente attendevo. Lui non ebbe riserve, non ebbe remore a farmi immediatamente una proposta e mi chiese qualcosa che in realtà lui già sapeva. Mi chiese se presso la mia struttura noi erogavamo un servizio di ortopedia. Chiaramente sapeva di no, perché nella conversazione lui mi fece capire che conosceva tutto della mia struttura, la compagine societaria, chi era il legale rappresentante, quindi io in quel caso conosceva tutto, da dove venivo o a che ora arrivavo in ufficio. Questi erano i convenevoli della conversazione, sono i tipici approcci mafiosi, ormai noi siamo abituati a Castelvetrano soprattutto a decriptarli. Quando senti che chi hai di fronte sa tutto di te, quindi in quel momento arrivò da te, arrivò da voi, facendo una richiesta che è diversa da quella che si è sentita fare Raffaella Ottaviano, perché in questo caso non si chiedevano soldi, ma si chiedeva qualcosa di più sottile, si chiedeva una convenzione che doveva di fatto servire anche a riciclare dei soldi. Tu non solo gli dicesti di no, ma anzi gli portassi anche un altro esempio che era già successo in un'altra parte della Sicilia, sempre a te, a dimostrazione di quanto il tuo no era granitico. Sì, questo signore mi fece la sua richiesta brevemente consisteva in questo: io avrei dovuto stipulare una convenzione con una struttura del Palermitano, convenzionata a sua volta col Sistema Sanitario Nazionale, avrei dovuto sovraffatturare le prestazioni. Mi fece un esempio per capire che avessi capito bene, mi disse: piuttosto che fatturare 100, lei deve fatturare 200, questi 100 in più li mette da parte, li conserva, io ogni 6 mesi, una volta all'anno, li vengo a ritirare. Quindi io avrei dovuto pagare questa forma di pizzo, tra l'altro legalizzata, perché comunque sarebbero stati soldi fatturati, quindi avrei pagato le tasse e avrei riciclato il denaro che veniva da quell'altra struttura. Ovviamente io ebbi immediatamente uno scatto di rabbia immediato, dissi subito di no e raccontai per far capire appunto che non avrei mai cambiato idea, per avvalorare quel no raccontai questo episodio che era successo in un'altra struttura di cui siamo proprietari, a Salemi in provincia di Trapani. Anche in questa struttura io, quando acquistammo questo centro di radiologia a Salemi, mi accorsi che il tecnico di radiologia che faceva parte della società commetteva una serie di illeciti, quindi lo licenziai in tronco, un licenziamento per giusta causa. Il capomafia di Salemi, io sempre fortunata, in qualunque posto mi trovo li becco sempre, il capomafia di Salemi mi venne a perorare la causa per la riassunzione di questo suo protetto, di questo suo amico. In quel caso non ci fu una minaccia. Ecco, tra l'altro lui era, questo signore, questo capomafia era in sorveglianza speciale, quindi sapeva bene come muoversi, non fece una minaccia, fece una sorta di raccomandazione per questo suo amico. Le azioni hanno sempre delle conseguenze, come pure le omissioni, e in tema di lotta alle mafie ognuno è chiamato a piccole fondamentali scelte prima o poi. A ciascuno il suo. A Castelvetrano quel nome non si può nemmeno pronunciare, quello che fa più paura, perché lui, il padrino, l'ultimo vero padrino di Cosa Nostra, è ancora latitante da qualche parte. Eppure Elena Ferraro non ha esitato a dire no a chi ha bussato alla porta della sua azienda di macchinari sanitari, forte del peso di quel cognome, Messina Denaro. Elena ha avuto coraggio ed è andata avanti, e ora forse è ancora più forte, come è stato per Raffaella Ottaviano, che 10 anni fa ad Ercolano, in terra di Camorra, ai piedi del Vesuvio, cacciò letteralmente fuori dal negozio chi si presentò come emissario dello zio, del boss, e da allora lei è diventata un simbolo intoccabile nella sua città. ha invece dovuto lasciarla, la sua città, Francesca Miscimarra, dopo che a Lamezia Terme aveva rispedito al mittente le pressioni degli usurai che si stavano lentamente portando via, oltre alla serenità della sua famiglia, anche la stessa vita dei loro componenti. Ha dovuto lasciarla a Lamezia perché dopo quel no la sua città ha smesso di andare a comprare nel suo negozio. Li hanno lasciati soli e così loro sono andati via dalla Calabria, dove per la prima volta è tornata per un incontro sul palco di Trame 4, il festival dei libri sulle mafie. Intanto sono felicissima e orgogliosa di essere qui nella mia città, la mia gente. E infatti io questo volevo chiederti, come ti senti a tornare felice, qui? Sono orgogliosa. Non ho lasciato la mia terra per paura, no, questo no, sono andata via solo perché non si riusciva più a lavorare. Il nostro settore, si sa, è un settore un po' delicato, quindi non avevamo più commesse, non avevamo più lavoro, quindi decidemmo di andare via, ma non per paura, perché io vivo la mia città, ritorno spesso, sono qui insieme a voi, anche se tante persone non mi conoscono. E la scelta che avevate fatto di sicuro non era stata una scelta di paura. Io ho perso tutto, ma ho perso amici, ma ho ritrovato una grande, grande famiglia. Perché si acquisisce la serenità, perché loro ti distruggono psicologicamente. Entrano nella vita e la stravolgono perché pensano di poterla controllare. Francesca, come hai ricordato voi, cioè quindi tu e la tua famiglia, siete dovuti andare via da Lamezia perché non avevate più lavoro. Sì, per il lavoro, solo per questo, perché tanta gente un po' si è chiesta perché sono andati via, però non c'era più lavoro. Ora lo dico a tutti, siamo andati via solo per il lavoro. Non per paura, perché io vivo la mia città, vivo qui, ho la mia famiglia, la mia gente, e questa è una cosa che comunque sentivi di dire. Ma di secondo dire. Te, Francesca, il fatto che il lavoro per voi sia diminuito è in qualche modo stata anche conseguenza del vostro gesto, quindi di denunciare? Certo, perché comunque loro erano ovunque. Loro te li ritrovavi ovunque, la gente poi non ti chiedeva più nulla, quindi non lavoravi più e quindi alla fine insomma abbiamo scelto di andare via. Solo... E questa è una cosa molto importante che sta raccontando in questo momento Francesca Miscimarra, perché è uno dei condizionamenti più forti e una delle minacce più sottili ma allo stesso tempo più profonde che le mafie riescono a mettere in atto laddove non ti, diciamo così, non ti ammazzano fisicamente, ma allo stesso tempo uccidono lentamente la tua attività, facendo in modo che le altre persone non vengano più a servirsi. Ecco, ci vuoi raccontare, Francesca, come è progressivamente è nata, ma anche come è progressivamente diminuita la clientela vostra, nel senso persone che venivano da voi, avete visto lentamente, progressivamente allontanarsi da voi? Sì, perché comunque era un gesto forte, dire no, denunciare, quindi tanta gente ci vedeva come se noi avessimo fatto la cosa sbagliata, non quella giusta, ma non è così, ve l'assicuro a tutti, perché comunque appunto denunciare sicuramente è una strada che non è facile, ha degli ostacoli, però ecco, la tua storia è anche una storia di successo. Ci vuole coraggio ma tanta fiducia, tanta. Tanta fiducia innanzitutto nelle istituzioni e nelle persone a cui ti rivolgi nel momento in cui denunci. Sì, vabbè, è partito tutto da sola, però nel mio cammino incontrai l'associazione tramite un socio, che ci tengo, non c'è più questo socio, però vorrei un applauso per lui. È un percorso che sì, mi portò da queste persone squisite, veramente, che sono stati i miei pilastri, lo sono tuttora. Parli dell'associazione? Parlo dell'associazione Antiracket, del presidente Armando Caputo, grazie, e della dottoressa Morano Maria Teresa, e di tutti i soci, veramente, che sono delle persone squisite, sono le persone che non ti lasciano da sola. Ecco, questo, a questo mi riferivo prima, la grande famiglia sono proprio loro. E questa è la cosa importante, no? Cioè, perdi un sacco di persone perché vieni emarginata in qualche modo, ma ritrovi tanta gente bella, veramente, che non ti lascia da sola. La sensazione di essere un appestato, diciamo, sì, così, sì, è quella sì, che spesso condividono molte persone che denunciano. Il fatto che di sentirsi dal giorno dopo come la persona da evitare, come la pecora nera della comunità che in qualche modo va isolata perché sta portando scompiglio all'interno della stessa comunità. Hai toccato un tema importante, e adesso volevo tornare anche dalla Ottaviano su un punto che tu hai sollevato, però io prima vorrei chiederti: sappiamo che la vicenda giudiziaria che è nata dalla tua denuncia, dalla vostra denuncia, quindi gli arresti che ci sono stati, anche l'iter giudiziario non è ancora concluso, perché no, dopo una condanna in primo grado poi c'è stato un appello che ha ribaltato con la sentenza, sono stati scarcerati per un vizio di forma, stato fatto ricorso in Cassazione, ancora ad oggi la Cassazione appunto ha stabilito che dovesse esserci un secondo processo d'appello. L'appello. E questa è ancora un'altra questione, che è quella riguardante i tempi, i tempi della giustizia e i tempi delle risposte che vanno date a queste vittime di usura e di racket, che invece hanno bisogno di una risposta immediata dalle istituzioni. Però io volevo chiederti, ecco, se tu volevi raccontarci anche il vostro incontro ravvicinato, diciamo, con chi è venuto a chiedervi. Io ho ereditato, perché non ero a conoscenza di quello che stesse succedendo a casa mia. Quindi ho ereditato tutto quanto, pian piano capivo che c'era qualcosa che non andasse, e mi sono ritrovata davanti ad un muro, un qualcosa più grande di me. Lì capivo che vedevo gente strana, gente che non avevo mai visto, che comunque cercava il mio papà. Io lavoravo con lui, quindi capivo che c'era qualcosa di anomalo che non andava. Alla fine ho capito quello che stesse succedendo, e da lì mi sono rivolta alle forze dell'ordine, e poi da lì partì tutto, perché era la cosa più giusta da fare, perché la mia famiglia comunque si stava distruggendo, stavamo perdendo tutto, stavo perdendo mio padre. Perché poi chiaramente, oltre ai soldi e oltre all'attività, ecco, queste persone ti tolgono la serenità, innanzitutto, ti tolgono la serenità di una vita, ti tolgono la serenità di un clima familiare. Scusatemi. No, ma scherzi, le lacrime, anche la commozione di Francesca, giustissima, legittima, rende anche proprio più di qualsiasi parola il senso profondo di che cosa significa avere a che fare, toccare direttamente avere a che fare con una qualcosa alla di più fine grande non di noi. Chiudono, non vogliono chiudere, vogliono lasciare sempre un filo sospeso, quindi questa è la cosa più giusta da fare, tutti insieme. Sì, ce la possiamo fare, tutti insieme ce la possiamo fare, se siamo uniti, sì, tutti, perché non si è da soli, forse come tanti anni fa, oggi no, perché c'è lo Stato, lo so, mi dispiace, però alla fine ha ritrovato dell'ordine. Anch'io devo ringraziare le forze dell'ordine, perché non l'ho mai fatto, la Guardia di Finanza, la squadra mobile, i carabinieri, tutti. Sì. E le loro storie dimostrano anche che progressivamente nel tempo sono aumentate le persone che hanno denunciato. Infatti gli ultimi dati anche del commissario che sarebbe dovuto essere con noi anche questa sera, del commissario straordinario anti-racket e anti-usura, i dati appunto del Viminale, raccontano proprio di un aumento, di un raddoppiamento anche delle denunce che sono state, me le ero appuntate, sono state 2000 gli ultimi dati, al contrario delle 701 dell'anno precedente, quindi più che raddoppiate, ed infatti sono stati anche aumentati, sono 32 milioni i fondi che il Viminale ha stanziato per andare in soccorso delle vittime di usura e di racket. Diminuisce il racket, aumenta invece l'usura, e la storia di Francesca ce lo dimostra. Però io volevo, ora dopo avervi fatto conoscere anche da vicino le loro storie e quindi aver introdotto già anche alcuni dei problemi e degli ostacoli che si trovano di fronte, vorrei ora però riflettere su questo con loro, a cominciare dal discorso dei tempi della giustizia. Allora, la vicenda di Francesca è una vicenda tuttora aperta, la Cassazione ha stabilito, dicevamo, un altro processo d'appello, questo non è stato ancora fissato, e lei nel frattempo e la sua famiglia porta avanti la loro attività lontano dalla Lamezia, lontano dalla Calabria. Però che cosa significa per chi invece, come Raffaella Ottaviano e come Elena Ferraro, resta sul territorio? Che cosa significa continuare a portare avanti la propria attività aspettando i verdetti poi della giustizia? Ci sono gli arresti, ma poi bisogna aspettare le sentenze, che le sentenze diventino definitive. Chiaramente i risarcimenti hanno percorsi di tipo diverso, però ecco, non ci si sente del tutto al riparo finché la Cassazione non ha stabilito fino all'ultimo grado, appunto, che le persone che erano state denunciate sono colpevoli fino in fondo. Verità, Ercolano è diventato proprio per questo un modello Ercolano. L'hanno definito il procuratore della DDA, Rosario Guantelmo, perché i processi sono finiti tutti. I primi 40 denunce. E adesso ci sono quelle dell'usura, che l'usura è fortissimo. Più del racket. Sì, sì, molto di più. Quindi questo non saprei dirlo, perché adesso io sono presidente onorario, non più la presidente. E nel frattempo la situazione ad Ercolano è anche cambiata, sì, perché è cambiato. Nel momento in cui non esiste più il pizzo, Ercolano è una città libera dalla camorra. E questo anche perché appunto c'è stato un momento in cui le denunce hanno rotto questo silenzio, sì. L'hanno fatto anche in una stagione, come dicevamo prima, in cui i morti ammazzati per strada si contavano a decine. Ogni 2-3 giorni c'era un morto ammazzato. Si contavano a decine. Ecco, questo però è in una realtà come Ercolano ha avuto questo esito positivo. Adesso volevo chiedere anche per Elena Ferraro, la vicenda è tuttora aperta, però stiamo parlando di una realtà, quella di Castelvetrano, dove invece incombe ancora fortissima la presenza, perché se la presenza del super boss di mafia, perché se il cugino e gli altri sono stati arrestati anche grazie alla tua denuncia, è diciamo la sfida più forte su cui si stanno concentrando da anni le forze dell'ordine siciliane, quella di riuscire ad arrivare ad arrestare Matteo Messina Denaro. Ecco, e stare nella stessa città, allo stesso, immagino, come dire, e quando si sa perfettamente che i latitanti non sono tanto lontano, in genere si nascondono nella stessa città, nel loro stesso feudo, è in ogni caso una sorta di sfida che quotidianamente viene rinnovata. Ecco, per te quanto è importante avere una risposta immediata da parte della giustizia, perché se ci sono state appunto le risposte del fondo anti-racket, per cui siete stati risarciti in tempi celeri, ecco, bisogna aspettare tutto l'iter giudiziario. Questo in qualche modo sta alterando la tua quotidianità di imprenditrice oppure no? La risposta è stata positiva in termini tra l'altro brevissimi, perché il mio estorsore ha scelto il rito abbreviato, per cui gli arresti sono avvenuti il 13 dicembre del 2013, lui è già stato condannato, c'è stata la sentenza di primo grado, quindi sono passati fine maggio, c'è stata la sentenza, quindi in 5 mesi è già stato assicurato alle patrie galere. la risposta della città è un po' ambigua, nel senso che io faccio sempre una distinzione anagrafica, è chiaramente una linea di demarcazione ideale, però purtroppo è così, cioè mi riferisco a, la linea è questa, che delimita gli under 50 e gli over 50, nel senso che gli over 50 sono un po', hanno ancora nelle orecchie il rumore della bomba, delle stragi del 93, e quindi hanno, diciamo, nei confronti del mio gesto un atteggiamento un po' di ritrosia. Le frasi che sento spesso da queste persone è sempre: ma chi te l'ha fatto fare? Ecco, un po' fa male sentirsi dire questo. Questa è una cosa che ritorna spesso, io ricordo ritorna anche l'anno scorso. Sì, hai fatto bene, però chi te l'ha fatto fare? La tua vita è cambiata. Guardate, io devo testimoniare che la mia vita non è cambiata per niente. Non è cambiata per niente, anzi devo dire da quando ci sono stati gli arresti, da quando insomma la mia vicenda è balzata agli onori della cronaca, io ho molti più amici, molte persone che mi dimostrano tantissima solidarietà. Anche una cosa importante che è successa a Castelvetrano, che il comune di Castelvetrano ha recepito un regolamento, credo se non sbaglio regionale, che prevede di esentare per 5 anni le aziende che denunciano il racket dell'estorsione dalle tutte le imposte comunali. Quindi io per 5 anni non pagherò IMU, TARES, sono tanti soldini. È già un segnale fondamentale per Castelvetrano. Per riascoltare tutte le puntate di A Ciascuno il Suo, il sito è radio24.it, ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce, ricordate Storiacce, e sul blog Storiacce. Su Twitter invece l'account è Raf Calandra. Ciao a tutti, a presto.